faccio, insomma, molti in banda, l'ho riagganciato, adesso la prossima volta la metto maniglione così non si sgancia più. E basta, poi alterneo sul tetto, non ne ho più, la manta, vai una X50 o X30, cos'è, cavolo, a 510 ho tolto tutto, quindi meglio così. Va bene, Roberto, ora ti riprendi. No, aspetta, il PTT lo comandi con la mano tra uno e l'altro, diciamo, lo metti in mezzo, tipo i vecchi telefoni, così. Quando connetti il telefono, tu come la prendi? Con la mano? Ecco. Io la prendo con la mano normalmente, però con le dita schiaccio il PTT. Adesso sto parlando normalmente come gli stia telefonando, poi mollo il PTT e ascolto con l'altoparlante che c'è nella cornetta superiore. Quindi fa tutto dalla cornetta, è quello, infatti io ho detto, non ho capito quello lì, fa tutto dalla cornetta. Si conferma, fa tutto dalla cornetta, KK, vi dico che c'è un'ottima ricezione anche dalla sua cornetta, va bene. Perché non c'ha nessun aggancio, nessun attacco dove mettere colonnine esterne, fa tutto così, capito? Però è funzionante al 100% e sono contentissimo di averla presa, beh. È un pezzo rarissimo del 74. Va bene, sono radio militari proprio a tutti gli effetti, c'è tutta la parte militare, capito? Va bene, avanti Anto, riprendi e fai girare. Questo è il sommergibile, cambio. Avanti già. Buonasera, buongiorno a tutti, dai. Ciao, il doppio lupo. Dico buonasera perché oggi me l'ha fatta l'uso e mi sono andato a toprarmi, dai. Oggi almeno che domenica. Gianni, ma non è che eri agganciato, ti sei dimenticato di sganciare gli ormeggi stamattina? No, in che senso? Se facevi ciucucciù. No. Sono io solo stavolta. Ah, fa bravo, perché la mattina ricordati che bisogna sempre sganciare gli ormeggi, altrimenti qua il sommergibile affonda. No, che bisogna gli orari, Oh, Claudio. Ehi, Anara. Ma il microfono qui c'hanno le norme militari, i connettori, non si possono neanche, dovresti modificare il coso, il connettore, per mettere un altro microfono. No, devo modificare nulla, è tutto militare, Noghi. C'è un connettore enorme, grande, che si innesta dietro, con un rondellone. È tutto militare, l'attacco è a 24 volte con delle piastrine. Con le piastrine che devi avvitare per fare il contatto, capito? È una radio militare, Roberto, non c'è niente a modificare qua, no? Questo deve funzionare così, il mio sommergibile. Quanti volte tira fuori? O regola fissi o regolabile, insomma? Sì, c'ha due potenze, minima e massima. La minima è 10 watt e la massima adesso sono in alta P, HP, 25 watt di potenza. Ehi, a qui spinge pure, no? Pensavo fossero pochi watt, invece 25 già abbastanza. 25 watt, va bene, ottima ricezione, ottima trasmissione, microfono normale, anche se un po' citofonica, sappiate che fa male con la microcornetta. Avanti Vito, riprendi. Va bene, vanno bene, poi quelli erano proprio nati per lavorare in modulazione di ampiezza. Infatti si conferma, sì, è un Classman PCR 320 del 74. Va benissimo. Avanti doppio, quindi ti sei alzato tardi, le pulizie le avevi già fatte, tutto a posto, la britella l'hai messa a posto? Tutto a posto, il carro ho volato giù, ma c'ho avuto freddo. Ma freddo vado. Ma vado a salire a casa, stare al calduccio qua. Si sta meglio in casa, ciao Vittorio. Interrogativo, con la roba là l'hai guardato? Sì, gli ho dato un'occhiata, ho ordinato un integratino dell'oscillatore, vediamo un pochino, dovrebbe essere lui, se no è qualche condensatorino. Sì, lo fa ogni tanto, diciamo 9 volte su 10 va bene, però ogni tanto ho visto che io gli ho messo un carico fittizio a 110 watt, perché a vuoto accende e spegne quasi sempre perfettamente, invece col carico ogni tanto ci accenna. Ho messo in ordine un integratino, ci vorrà un po' di tempo arrivare, però come arriva proviamo a cambiarglielo sulla schedina di controllo. Andava, era per sapere se l'avevi guardato almeno. Va bene, rilascio tutto Antonio e poi fa girare. Ma che è quello che andava male già? L'ha diventato. Ah, sì, vabbè, piano, già si aggiusta. Già si aggiusta quello lì. Mi dispiace perché a 50 ampere, un alimentatore che costa anche qualcosa in più degli altri. Gli avevo detto a GCG di portarne qualcuno, perché questi vanno bene e vanno. Siccome ho visto un forum, dicono che per quello che sono vanno bene. E ho detto, portatelo anche da 50 ampere. Lo devo dire, boom, va, se non l'avrei preso, ne ho due da 30, ne ho, ma già bastano. Vabbè, sette bastano. Ma, Vito, quello lì sì che li carichi 100 watt, va bene. Quando ne carichi 300, che comincia a fare tru. Ma quello può essere rientro di RF, può essere rientro RF. È un problema che hanno molti quando usano amplificatori, soprattutto di quelli a transistor, se non hanno tutte le masse in ordine, cavi di una certa lunghezza, insomma, con rientro di RF, ma lì posso mettergli due, tre cosi magneti dentro di ferrite per bloccare un po' di correnti sul cavo d'ingresso soprattutto, ma spesso con quei lineari la radiofrequenza rientra dal negativo, dal coso di massa e crea problemi. Bisogna mettere ferriti, non è per la potenza, il rientro di RF che probabilmente ha mezzo danneggiato l'integrafino. Io li ho messo a capo un bel grossi, da tre li ho messi, sono molto spessi, quelli che usano per intenderci negli impianti stereo delle macchine quando fanno l'impianto elettrico. Ho messo qui, li ho comprati da Pudi, che figurati. Quelli che usa lui per fare gli impianti elettrici sono un bel grossi. Sì, ma il problema non è di caduta di tensione legato alla resistenza di contatto sui cavi, il problema è proprio rientro di radiofrequenza, rientro di RF, che molti addirittura sentono, poggiano l'orecchia sull'alimentatore, sentono la loro voce dentro l'alimentatore. È vero! Sì, anche qua lo faccio. Rientro, infatti quello è stato danneggiato con rientro di RF. Altro c'è da sistemare, una volta sistemato c'è da eliminare gli rientri di RF, se no ho due passaggi a piena potenza e sei punti a capo. Vabbè, dati da fare, che lo aspetto. Avanti Vito, capo di positivo, vabbè, di questo ne abbiamo già parlato, l'RF è una cosa un po' brutta, quando entra buzzinosa la regia, ne fa solo danno e basta, quindi bisogna cercare sempre di tutelare le cose. Va bene. Niente, Roberto, riprendi, avanti. Ok, allora fare attraverso con Vittorio, tu che radio stai usando, Vittorio? Hai che microfono? No, io sto usando un Alan 68 S, capo. Con microfono normale? Sì, il suo. No, ma sta facendo bene, la radio è chiara, pulita. Ok, chi c'è arrivato qua? C'era Luca Flipper, finita Luca di lavorare? Ma cosa lo chiami a fare Luca Flipper, che non entra se ci sono io? Boh. Avanti Antonio, riprendi. A cappa, dai. Aspetta un attimo. Cosa c'ha? Sì. Ok, le stavo dicendo. No, il mio, cioè, quel Proxel che aveva Babbo, e qua rientro lì, io lo sentivo, infatti poi si è guastato, si è. Questo io non ne sento di quella roba lì dentro l'amplificatore, assolutamente. Deve essere che hanno un circuito che non va bene. Io vabbè, ma te l'ha spiegato Vittorio, io te l'ho già detto l'altra volta, stai attento tu. Quando c'hai questi rientri di RF cerca di mettere a posto, perché poi vi danneggia gli alimentatori, capito? Oltre a tutto il casino che può fare, è sempre un pericolo. Quando c'è rientro di RF, che sentite la voce di un alimentatore, o rientro del microfono, casini, o soprattutto ti dà la scossa al PL, c'è un problema di fondo che bisogna risolvere, altrimenti poi vedi, fa danno all'alimentazione come è successo a Gianni. Tutto qua, perché Gianni era già da tempo, e a me appunto diceva, non ho sentito la mia andare all'alimentatore, ho non si riusciva a capire che cosa era, però effettivamente poi l'ha riscontrato Vittorio. È un casino, l'RF è un casino. Va bene, avanti Gianni, riprendi. Tu va un interrogativo a farti. Adesso ho messo un alimentatore da 35 ampere e non l'ho fatto. Come mai? Non esiste, è di quelli col trasformatore. No, è di quelli missili. Sempre sì. Perché non sta facendo rientro di RF? Non tutti tollerano lo stesso ingresso di RF, ma comunque quello che mi hai dato da controllarti, quello è fatto, lo usano i radioamatori, ha tutte le protezioni necessarie, però a volte qualcuno dei condensatori di filtro si danneggia e fanno rientro di RF, quindi c'è a controllare tutti i filtri in ingresso che siano a posto. Vabbè, buon lavoro. La verità, io rientro di RF, ce l'ho avuto solo una volta nell'altra antenna che si è staccato un pezzo, ma qua mai, non ho mai avuto problemi. E negli alimentatori io non ne sento di niente, vanno bene. Sì, il discorso l'abbiamo fatto la volta scorsa, se l'antenna è per messa a regola d'arte, irradia bene eccetera, rientri di RF non ce n'è, però ci sono mille buoni motivi perché è una parte di segnale, rientri tramite la calza della schermatura del carro e torni indietro e può creare problemi, più bassa è la frequenza e più sono le rotture di scatto. Qui in 11 metri è quasi inesistente il fenomeno, però qualche volta c'è. No, la verità, io da quando è qua non ho problemi, capito? Non ho nessun tipo di problema da quando mi ha fatto. Ehi ragazzi, anche che amplificatore che non va bene, però me ne sono accorto, ho staccato. Però la verità no, non ho nessun tipo di problema, per adesso, credi che mi tocco, grazie a Dio. Solo qualche cosa che ieri me ne sono accorto, che c'è qualcosa che non va con l'amplificatore là. Però alla fine non ho nulla di problemi. Sono riprendo io, signore. Ci sentiamo Mario se coincide stasera. Ciao a tutti, dai, ciao Claudio, Vittorio, Gianni, Antonio e tutti gli eventuali amici qua all'ascolto canale QRT da parte mia. Ciao ciao, buon proseguo di chiacchierata. Ciao ciao. Ciao Robe, ciao, ci sentiamo. Buona carica quando la fai. Grazie per il questione. Avanti Antonio e poi fai girare. Cappa, salutoni! Robe, ce la sentiamo, avanti Vittorio! Sì, ciao, ciao, saluto tutti anch'io, vado in cucina, ci si sente, Vittorio Giove, QRT Now, bye. Ciao Vittorio, ciao, alle prossime, ciao anche a Roberto, cordialità e saluti, baci e abbracci, lode e squisitezze per tutti, buon pranzo, avanti già. Io ho già salutato a Vittorio, avanti Vittorio, buon correttivo, la carica, ci sentiamo, vai. Avanti, chi è rimasto? E ci sono Antonio. Va bene, cambio, avanti Antonio. Gappa, molte volte sai, quel fenomeno lì comunque, me lo faceva quel boxer là che si è anche guardato, ce l'ho in deposito, ce l'ho. Dentro il magazzino ho dovuto io un paio di pezzi. Cioè, a lungo andare, perché io lo sentivo, se la frequenza la sentivo sempre dentro l'alimentatore, quando modulava lui. A lungo andare quello, si è bruciato, non anda più. Anto, io qua, c'è Vittorio qua, c'è l'ascolto, ma me l'ha comprato Vittorio quel Proxel 5560. Ce l'ho una vita e credetemi, radio ne ho attaccato tante, anche di con potenze, con assorbimenti anche molto alte. Capito? Non ha mai creato problemi, mai, nel modo più assoluto. Quindi non posso dire niente a quell'alimentatore, è un alimentatore protetto, un alimentatore che funziona molto bene, fa il suo lavoro e ti ripeto, radio anche 4, 5, 6 HF c'erano attaccati e non ha mai avuto nessun problema, quindi può darsi pure che sia uno su mille quello di Gianni che già appunto mi aveva spiegato che era arrivato difettoso, aveva riscontrato un difetto, quindi magari questo difetto ce l'ha portato avanti qui e là, che c'è il, non so, ma te l'avevano cambiato già, mi pare, ma avevi detto, o l'avevi fatto riparare, com'era la situazione? No, aspetta, quello là era da 25, avanti già. Praticamente come l'ha attaccata ha fatto puff e si è bruciata. E me l'hanno guardato, mi hanno detto, no, no, vi spedisci l'indietro che è garanzia, non te lo tocco nemmeno. L'ho rispedito, questo alimentatore poi non arrivava più, gli ho mandato lettere, questo e quell'altro. Ho cercato la tracciabilità, grazie a Dio c'è un amico che lavora alle poste ed è riuscito a rintracciarmelo dove era e me l'ha fatto mandare in pochi giorni, però erano mesi che lo stavo aspettando, pensavo che me l'avessero bruciato. E invece mi è arrivato questo, solo che il problema è questo, se c'era roba attaccata e tu accendevi l'alimentatore, si spegneva, andava in protezione subito. Vedi, quindi Antu, magari su 1000 quello di Gianni ha avuto problemi dall'inizio, nonostante gliel'abbiano sostituito, magari la gente onesta o disonesta che sia non l'hanno infatto nudo, li hanno rimandato indietro com'era e quindi ci ha provato questo problema. Però ti ripeto, la maggior parte delle volte dipende dal come ha detto Vittorio, quindi io ce l'ho con l'alimentatore uguale preciso identico a quello di Gianni e non ha mai creato nessun problema, usando naturalmente l'impianto diverso da quello di Gianni. Però è così, può capitare, non è che perché è capitato a Gianni o può capitare ad altra gente, può capitare. È così, l'elettronica nell'elettronica fa parte anche il rientro di frequenza e altre balle varie. Va bene. Bando alle ciance, che ora si è fatta? L'1:05, qua dal sommergibile di Claudio Spagliero, avanti Antonio. Capa, no, quello che avevamo noi era da 25 ampere, era il Bloxer 25 ampere, ma a me la verità, quando l'aveva comprata non piaceva, mi pareva una schiappica, cioè perché aveva anche questo problema qua, infatti gli hanno addumare. Quello che abbiamo io e Gianni è 55-60 ampere, ti ripeto, falso lavoro, è un ottimo alimentatore, io lo pagai allora, non mi ricordo quanti anni fa, me l'aveva comprato Vittorio, era arrivato proprio da lui il laboratorio, me l'aveva dato lui, nuovo, dentro la scatola, mi pare avessi pagato 150 euro, ma ti sto parlando di tanti, tanti anni fa, forse 6, 7, 8 anni fa, non lo so, e vai a comprarlo oggi, quell'alimentatore ci vogliono 200 euro per comprarlo, quindi non è un giocattolino, è un alimentatore molto, molto buono, abbastanza soddisfacente per quello che devi fare, però ripeto, può capitare che nel contesto ci sia qualche problemino di fondo che poi vai a portartelo così come è successo a Gianni e alla fine ci vai a attaccare delle cose supplementari e succede quello che succede, insomma, ti ripeto, sono cose che possono capitare sia a noi che ad altri nel mondo della radio in generale, capito? Vai Gianni, mi ascolti bene col sommergibile, pronto? K, ti ascolto bene, dai, chiaro. Un po' citofonica la radio, ma già è bella, dai. Per quella radio lì va anche bene. Come ti stavo dicendo, io con l'alimentatore lì pilotavo il 140, non mi dava nessun problema all'inizio, capito? E ha cominciato da un po' che dà questi problemi qua. Infatti adesso lo faccio controllare, per buttarlo via lo faccio controllare. Va bene, ma dico la verità, ti dico, io ho comprato questi e sono contento, la verità, non mi danno nessun tipo di problema, non mi danno, cioè li ho pagati poco, però soddisfacenti, la verità, soddisfacenti. Questo me lo tirano bene, me lo tirano, il volo 747. Lo so, a me me lo stavo tirando Fabrizio, uno, me lo deve consegnare sicuramente questi giorni, avrà già ordinato, me ne ha ordinato un bel po' e quindi, ma anche se chiama ce ne avevo bisogno, ho detto di sì. Ho detto anche frequenta, ma tu non c'eri, magari ti serviva a te. E cosa è? Cosa è? Che tipo di alimentatore è? Come quelli che tu compri dai cinesi, però da 50 ampere. E tu ne vuoi? Quanto ne vuole? 20 euro. Davvero? Ha solo 20 euro, ha detto. E mai anche ordinato sicuramente. cioè se ne ha qualcuno in più so che hanno andato gli ammiro. Sì, anche da 50 persone. E io l'ho detto in frequenza a chi servivano, perché Fabrizio me l'ha detto, chiedi un pochino a chi servono, perché così faccio un ordine unico. Io ho chiesto, però nessuno ne voleva, Luca ce l'aveva, Claudio ce l'aveva, e l'ho detto per di volte e poi non l'ho chiesto più. Ma io non sapevo niente. Capo! È buono, eh! Non me l'ha giù mangiata ancora! è buono come prezzo, io me lo piglio! Ce n'è qualche due in più e me lo compro la prossima settimana. Tanto ce l'ho anche io, l'ho detto anche a Gianni, io per quello non l'ho comprato, io ne ho uno da 50 ampere, non comprato qua dai cinesi, comprato così come ha detto Gianni, 25 euro compreso il trasporto, ma lo tengo di scorta, e poi ne ho un altro da 35 ampere, però non è di quelli, è un po', questi che arrivano sono molto più massicci, la carcassa è molto fatta, è fatta diversamente, molto più robusta, capito, e funzionano molto bene. Io ci attaccavo il Mi 300 da solo e lo porta che è una meraviglia, ma c'ha 50 ampere, tu, capito? Non è, è buono, se lo devi prendere prendilo tranquillamente perché è molto buono. Capo, è buono, cavolo. E pure io questo l'ho preso qua a Sassari da Cingiullina, ti ho pigliato. Ah, chi c'ho cosa me lo bussava, cioè, ma... E non schiappettava, a casa ventiero me lo piglio pure, se gli avanzano, cioè, se ne ha qualcuno in più, però vado me lo prendo. E me lo metto qua. Ha detto una ventina di euro, qualche spicciolo in più, qualche cosa in più, può darsi che venga, ma intorno alle 20 euro. Non mi interessa, pure 25 euro si può prendere. No, non mi interessa, non mi interessa. Cavolo, hai che sobrigio, cioè. Chiamalo, se non li ha ordinati, magari te lo prende, ma penso che li abbia già ordinati perché vuole passare dentro la giornata, perché lì domani doveva ordinare. No, ma guarda, funzionano molto bene questi, cavolo. Già, ma questi sono una meraviglia, cioè, poi quella gli altro sta appena appena la tensione, qua funziona con una meraviglia, funziona. Adesso con poveretto tutto, cavolo, ne ho due, ne ho. Oh raga, io dai, stacco qua dal sommergibile nucleare e vado a mangiare, che è l'una, devo andare anche a mangiare il cane, dai, se ci siete stasera, va bene. Ok, ciao Gianni, ciao Antonio e chiunque sia l'ascolto. A più tardi se coincide, cambio. Ciao, ciao Claudio, buona carica. E anche io chiudo adesso, là. Sono anche io a preparare a mangiare a te, se ne preparo a mangiare a me. Ci sentiamo, buona carica quando la fate. Correti per me, ciao ciao. Ehi, ciao! Già, ce la risentiamo. Anche a te Claudio. KK, ciao, stasera, dai. Buon pranzo a tutti. KK, dai.